scusami. Solo che Cara Salderiva sono due ragazze, sono femmine, soprattutto a Madrid, che hanno partito proprio da quella domanda. Cosa sarebbe un sciopero per noi che siamo lavoratrici precari? Però non è perché, non è soltanto perché come blocchiamo la produttività, perché noi, loro, lavoriamo nel lavoro di, non so come si dice in italiano, di guidare, cioè di cura la gente, no? Cioè se io non vado al lavoro lei muore o lei sta male e non è una persona a cui io vado a toccare, no? Oppure io faccio traduttrice, se non tutto oggi, comunque sono io che devo tradurre domani. Cioè, i tempi e quello anche cosa sono io, la sensibilità di cosa sono, per cosa faccio, perché le cose, come hai detto tu, non sono divise, invece più. Secondo me un po' dei problemi di oggi non è soltanto come incidere, però personalmente le persone, i soggetti, sono un po' paralizzati di questo conflitto contraddittorio, no? Cioè, bloccare è una cosa, cioè abbiamo prima parlato di questa cosa del grillo, dei venti che ha fatto uscire questa eccedenza di gente che comunque non abbiamo del merito, però il fatto che c'è tanta gente, però questa gente perché non vanno a scioperare nello stesso modo? Non è soltanto perché la critica, non hanno la critica di capitalismo, ma proprio perché vivono loro stessi la contraddizione di cosa sarebbe bloccare qualcosa, perché è la mia vita pure, cioè, no? Non lo so, sto un po' confuso, però la cosa che hai detto tu che non può essere anche, secondo me non è semplicemente una cosa che possiamo aggiungere, perché le persone lo anche vivono in una maniera molto difficile, cioè, quindi è un altro. Io mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto Andrea proprio su delle similitudini che si possono andare a tracciare nell'organizzazione del lavoro fra quella che era 30 anni fa e quella che si viene a determinare oggi all'interno della metropoli come momento di valorizzazione e di lavorizzazione diffusa che ci troviamo a vivere. E credo che noi dobbiamo andare a centrare, come dire, il discorso su due nodi fondamentali, che proprio sui tre blocchi che Andrea proponeva, quello di persone, quello di merce, quello di informazioni, dobbiamo andare a mettere in atto. Uno è quello sicuramente del rifiuto del lavoro, di come oggi possiamo utilizzare quello che dal punto di vista della sovversione, dal punto di vista della rottura, dal punto di vista della rivolta è stato centrale 30 anni fa con certe modalità, con certi metodi che andava a chiedere più soldi e meno lavoro, e oggi si vede anche una conquista di quella flessibilità e precarietà come una rottura dello schema rigido del lavoro a vita che l'operaio massa si andava a vivere sulla sua pelle. E quindi andare a tematizzare oggi come si viene a realmente anche a tematizzare la questione del rifiuto del lavoro, che si fa collegare alla questione del welfare come tentativo di ricatto rispetto allo spingere verso lavori sempre più bassi, mal pagati e poco garantiti. E l'altro punto su cui oggi dobbiamo andare a riflettere è quello della soggettivazione, cioè di quali sono le modalità proprio di efficacia che riescono a produrre soggettivazione di massa e controsoggettivazione che possa andare realmente ad incidere. Io credo che partendo proprio dal livello dei consumi, quindi dalla riappropriazione, oggi possiamo andare ad innescare delle dinamiche, dei meccanismi che anche dal punto di vista direttamente anche cognitivo, nel senso che nell'organizzazione del lavoro che ci troviamo non tutta la gerarchia è allo stesso modo, ma si viene a trovare su scale differenti un blocco di persone o di merci o di informazioni. E quindi andare a tematizzare proprio da ripartire dai consumi, da questi processi di soggettivazione che noi possiamo indurre, delle pratiche che possano andare anche a creare delle forme più ampie di riappropriazione e dunque di messa in pratica di come noi vogliamo rovesciare questa ambivalenza costitutiva che ci viviamo nella precarietà di oggi. Anch'io ho un interrogativo prima del Io no, eh. Io credo molto che quando si mette al centro l'autonomia sia anche molto importante affermare diciamo, questo termine, questo stile, a partire non solo da forma, diciamo così, classica come autonomia dai partiti piuttosto che autonomia dai sindacati o come spazio come dire, autonomo che noi andiamo a definire così, tra virgolette, in negativo rispetto a quello che non ci piace, non ci va e che non vogliamo rappresentare in altro modo, perché anche questo un po' abbia molto credo a che fare anche con alcuni aspetti della costruzione del patto che sta dentro la costruzione del 9 novembre, ma poi ci vengo anche chiedendo un po' a Milano come sta andando questa esperienza. Ma sempre più intendere l'autonomia come innanzitutto autonomia della cooperazione sociale, autonomia nel termine di una costruzione. Credo che questo sia anche un elemento del ragionamento che abbia molto a che fare con quello di quello che prima veniva definita soggettivazione, insomma, no? Quindi l'idea che comunque la costruzione di ambiti di intervento, prima venivano citati per l'intervento di Davide due elementi, uno la formazione e l'altro il nodo precarietà, che potremmo anche tematizzare dentro la distribuzione differenziale di reddito all'interno dei flussi comunicativi metropolitani, quindi dentro anche una ricerca, una nuova pista di ragionamento che è uno strumento teorico prezioso di cui Andrea magari assieme ad altri si sta cimentando, che è il rapporto lavoro capitale rendita, insomma c'è molto bisogno anche negli anni degli annesi di questa ricerca rispetto al processo di valorizzazione e di digitalizzazione dei flussi metropolitani. Dicevo, partire dall'autonomia della cooperazione sociale secondo me è anche un buon punto di partenza per esprimere anche al meglio l'esperimento e per valorizzarlo ad esempio di Sito Prod, l'idea che un insieme di saperi, di possibilità e poi anche di dispositivo di allargamento, perché anche questo, no? L'elemento della comunicazione giocato in una metropolitana a Milano diventa subito dispositivo politico, non c'è nessuna separazione tra canale comunicativo e dispositivo politico. Quindi io direi questo come esempio. Dentro ad esempio i percorsi interni a un segmento importante della formazione, certamente noi non pensiamo che l'università o il ciclo, diciamo così, accademico-istituzionale della formazione comprenda interamente la formazione, che è un processo assolutamente spalmato dentro i circuiti metropolitani. Però dentro un luogo strategico come punto di applicazione della forza, non centrale nella valorizzazione capitalistica, ma assolutamente centrale dal punto di vista politico, perché è un'istituzione, quella, un'istituzione che continuamente crea il processo di gerarchizzazione della forza lavoro cognitiva. Quindi anche lì dentro costruire forme, stiamo cominciando a ragionare di provare a tematizzare tutti insieme, anche questo è uno sforzo concettuale, non di poco conto, stiamo provando a definire questa attività di cooperazione autonoma, di istituzione autonoma, però anche qua uno spazio di autonomia della cooperazione. Io credo che sempre di più, quando si parla di processi di soggettivazione, sia in palio la capacità nei luoghi di costruzione o perimetrati, o meno perimetrabili, come una diffusione di Sito Prod, questo elemento sia un elemento invece tutto costituente di apertura, di organizzazione e di spazio politico. Quindi da questo punto di vista mi viene un po', seguendo questo filo del ragionamento, pensare che lo sviluppo di tutta una serie di ragionamenti e di pratiche politiche, che non riprendo perché credo siano state ben illustrate da un lessico comune anche utilizzato nei tre interventi che questa sera sono stati fatti qui. Cioè, partendo da questo elemento come spazio costituente, mi viene anche da fare una mezza critica allo spazio politico in cui anche noi stiamo, sia chiaro, che è quello che ha portato, ovviamente sulla bella spinta della vittoria e dell'autonomia dei movimenti che è stata il 9 giugno, che insomma questo carrozzone ci ha portato a costruire il 9 novembre. Anche lì, da un lato vediamo come va e io, noi, spero che daremo tutto affinché quella giornata sia una giornata significativa, non fosse altro che dentro il ragionamento che faceva Andrea prima, quando si parla di welfare si parla di lavoro, quando si parla di lavoro si parla di welfare, permettetemelo, l'unica giornata in cui noi assolutamente complessivo qua dentro, prendiamo parola sull'accordo vergognoso del 23 giugno, ad esempio. Non fosse altro, serve anche lì un meccanismo di risposta significativo, perché se no insomma, vuol dire farsi ingabbiare dall'inizio alla fine dal referendum di CGL e CGIL da un lato e dal 20 ottobre e dal 20 ottobre dall'altro. Ma vengo alla critica. Noi dicevo, stiamo dentro anche noi a questo tavolo, speriamo che no, questa è una giornata significativa, ma ad esempio non crediamo che questa forma sia una forma adeguata per costruire nuovi processi di soggettivazione o di sviluppo dell'autonomia e della cooperazione sociale. Perché qual è il problema? In primis l'elemento della rappresentanza, in primis l'idea che dentro a dentro la complessità e dentro alla stratificazione del lavoro nello spazio metropolitano, questo elemento si risolve attraverso la rappresentanza. Peggio ancora se la rappresentanza si dà come in buona parte dichiarazione del 9 novembre, come la rappresentanza del più uno della sinistra, della cosa rossissima contro la cosa rossa, credo non ce ne sia di punto. Ma a maggior ragione credo che dobbiamo anche, io penso, avere la capacità di pensare alla pratica politica all'altezza delle contraddizioni che molto bene Andrea Fumagalli ha espresso fino ad ora. Quindi io penso che sia assolutamente importante avere la capacità di giocare anche una dimensione di evento, come può essere il 9, che è una presa di parola che tutti insieme andiamo a costruire. Ma penso che il futuro come capacità di sviluppo dell'autonomia, della cooperazione sociale, quindi un concetto di autonomia che è tutto costituente, tutto in avanti, lo si debba portare avanti dentro una ricerca politica che, come dire, si levi intorno ogni idea di ricostruzione di rappresentanza, insomma. E da questo punto di vista penso che anche il 9 in piazza, se non credo che a Milano, a Bologna no, ma meno male un po' sentendo anche altre campagne nel resto d'Italia, probabilmente il 9 non ci saranno le condizioni di possibilità per mettere in campo i tre esempi in forma molare, almeno come li indicavo magari prima. Ovviamente però sono preziose queste riflessioni perché ci indicano anche una possibilità di una ricerca su come funziona la fabbrica metropoli. Cioè ci indicano una pista di ricerca per andare a capire che cos'è il ciclo produttivo dentro la metropoli. Perché lo sappiamo, e questo schemino secondo me è anche interessante, che il sapere di parte è un sapere assolutamente interno alle lotte, che si tiene per mano poi con le lotte che vanno messe, in campo. Su questo però credo che se non ci sono le condizioni di possibilità per mettere in campo quello che tutti noi vorremmo, invece c'è la possibilità, io penso il 9, innanzitutto di agire in termini sociali, cioè di allargamento di punti di applicazione della forza e quindi dello sciopero, uno. Due, di comunque saper attraversare quei flussi comunicativi che attraversano le zone dove noi ci muoviamo o dove ci andremo a muovere liberamente, come risignificazione di quelle strade, risignificazione dei simboli e dei messaggi. Quindi anche qua utilizzare un elemento che non è paradossalmente nuovo, cioè tradizionalmente magari allo sciopero veniva collegato un elemento che era quello della manifestazione, per capirci, no? Anche questo non è che lo stiamo inventare noi. Anche questo elemento qua, dentro un contesto nuovo, può essere, faccio un esempio, per zone significative rispetto a un dispositivo collegato alla precarietà, cioè alla ricattabilità economica delle vite, come le politiche di controllo sociale o le politiche securitarie, in cui la gerarchizzazione è una gerarchizzazione segnata su il coefficiente espressivo delle persone, cioè sulle forme di vita da stare insieme, per capirci. Beh, riattraversare quei luoghi, quel giorno, cambiando però di segno la conformazione di quei luoghi e i flussi di persone, di messaggi, di simboli che l'attraversano può essere anche questo, non un orizzonte forte e significativo come secondo me l'esempio del movimento anticipie, ma può essere un ulteriore spazio di soggettivazione e di risignificazione, in cui lo sciopero certamente ha e deve darsi una dimensione, per capirci, dialettica del far male, ma allo stesso tempo ha una capacità di soggettivazione e una capacità anche di accumulo di forze e di energie. Un accumulo di forze e di energie che ovviamente è un elemento assolutamente importante per poi spiegare quell'autonomia della cooperazione sociale che io penso sia davvero l'unica possibilità di una durata, cioè di una continuità di una pratica politica all'altezza di, della domanda che cos'è l'autonomia non solo al giorno d'oggi ma anche al giorno d'oggi. No, la domanda semplicemente era anche quella di Milano, che sia comunque dentro ad un ambito come quello di costruzione del 9 novembre che ci siano delle possibilità di sviluppo di esperienze significative come il City of God o comunque di costruzione di momenti autonomi di cooperazione sociale oppure no.